Chi gli dà la cicogna? Sì, lassù. Allora la cicogna va da Gesù. Gesù le affida il bambino. Io vi sono condannato un figlio di un'amica di mia madre. L'ho visto che era in un cestello. Bambino con... fare un'inchiesta come quella che ho cominciato. Tu, Moralia, che ne pensi? Penso che sia bene farla, qualunque sia noi. Perché si fa per la prima volta, cioè... quello che i francesi chiamano cinema verità. Per la prima volta, questo cinema verità... non nei salotti o nelle conversazioni abituali. Perciò credo che in sé per sé l'intervista sia bene farla. Io penserei che la gente o non risponde o... Lei sa che da un punto di vista psicanalitico c'è una ignoranza per paura, cioè esiste la possibilità che noi nascondiamo. Allora queste cose le ignoriamo, e per ciò che riguarda il sesso è proprio così. Una specie di crociata contro l'ignoranza e la paura. Insomma, questi sono i termini più o meno di una dissacrazione, non ti pare, Moralia? Sì, e questo è quello che volevo dire, è una dissacrazione. Ricerche primo. Grande fritto misto all'italiano. Il suo viaggiatore che gira per l'Italia a sondare gli italiani sui loro gusti sessuali. Raccolgono l'idea di un film di questo genere e di conseguenza come si comportano di fronte all'idea dell'importanza del sesso nella vita, molto allegramente, nota del regista. Secondo lei i problemi sessuali vanno trattati esplicitamente o come meglio tacerne? Per me è meglio tacerne. Parla abbastanza e male. Ti piacerebbe vedere un film che ti spiegasse queste cose? Ma no. E perché? Perché non mi piace. Ti interesserebbe più forse un film un po' pornografico, un spogliarelli, cose di questo genere? Sì, un po' spogliarelli. Ti interesserebbe più quello che invece un film che invece tratti proprio onestamente e scientificamente del problema? Sì. Sembra giusto questo. Amen a me. Non te ne vergogni un po'? No. E tu che ne dici? Gli spettacoli un po' erotici, gli spogliarelli eccetera, ti piacciono o no? La mia passione. Ci sei mai andato? Ci sono andato una volta. Dove? A Tobruk. Dove? A Tobruk, in Libia. Sei divertito? Ma là... Cosa ne pensi di questo ragazzo che va a vedere gli spettacoli poco decenti? Che è furbo. Ma tu li approvi questi spettacoli? Vabbè, come donna non dovrei approvarli, ma se fossi un uomo lo approverei. Lei cosa ne pensa degli spettacoli scandalistici? Di certo non li approvo, comunque li tollero perché sono divertimento come un altro. Comunque io non li andrei a vedere. Per ragioni morali o per ragioni estetiche? Per entrambi i motivi. E per te il problema della sessualità è un problema molto importante o no? Sì. Lo dici talmente cupamente che fai cose di paura. Non ti fa allegria, non ti fa allegria questo pensiero, questa preoccupazione. Oh, cioè è più una cosa triste che una cosa allegra. Sì. Dunque, la sessualità è triste ma è importante per te. Secondo me il problema della sessualità è un problema anche importante, però per me viene in secondo piano.